Dorado. E lei tasca che avevo nada, ero culo nero Prada. Camminando per la strada stringevo un rosario viaggiando lontano da qui. Fuori bevo su una scala, dentro casa cantollana. Nefertiti è la collana che porto da quando sognavo una vita così. Sogno un Ferrari dorato, terzo qui nel mezzo del Cairo. Nel deserto ballerò il fado. Aprietalo, prendelo. Se sto mondo fosse un mercato, io sarei l'anello più caro. Dormo in un furgone blindato. Tu sogno qui, brillava già. Siamo pieni d'oro, tasche piene di euro. Questi pieni d'odio non mi spengono il fuoco. No. Dicono il dinero non è sodo. Mi piace lei perché ha il culo sodo. La potrei portare ad El Dorado. Andare dritti al sodo, ok. Sogno un Ferrari dorato, terzo qui nel mezzo del Cairo. Nel deserto ballerò il fado. Aprietalo, prendelo. Se sto mondo fosse un mercato, io sarei l'anello più caro. Brillava già sotto la sabbia di casa blanca, da figli di mamma. Sotto la sabbia di casa blanca, da figli di mamma. Empezamos desde abajo y estamos aquí, yeah. Siempre los cofres sin ponerme jean. Coroné como a la cucha, le prometí. Dieron espacio y al ángulo lo metí. Venía con esto y voy por Italia. Se toque París y no fue Natalia. Las babies se pegan sin usar la labia. Aparecen los chavos como haciendo maya. Uy, yeah. Rezo pa' que al enemigo no le vaya mal. Robo es el Ferrari que me voy a comprar. Uy, suena. Sí, Dorado. Yo soy toda la sangre. Dorado.